giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le possibili soluzioni al problema dell'energia. A Monfalcone, nel corso di un dibattito, è stata ipotizzata la realizzazione di un reattore sperimentale che in una prima fase non impiegherebbe combustibile nucleare. Cartiere in crisi per l'assenza di ordini. Il mercato si è fermato a causa dei rincari energetici e in regione ci sono 6 realtà produttive che danno lavoro a un migliaio di addetti. Alcune aziende si sono mosse con anticipo per garantirsi almeno in parte l'autosufficienza energetica. Il caso della Roncadin di Meduno. La regione mette a disposizione oltre 2 milioni di euro per la formazione del personale sanitario sul tema delle infezioni ospedaliere. Il gruppo spagnolo Elians rileva la quota di maggioranza di Eli Friuli alla più longeva società elicotteristica in Italia. Studenti in corteo a Udine per chiedere più investimenti nell'istruzione. Tra le ragioni della protesta anche il cambio di denominazione del ministero. La Guardia di Finanza sequestra nel Monfalconese 1800 articoli fra prodotti elettrici e custodie per cellulari, privi dei requisiti richiesti dalla legge. Le previsioni del tempo per il weekend. Domani variabile con piogge sparse sulla zona orientale, poi entrerà la bora. Domenica cielo poco nuvoloso, mentre martedì ci sarà un peggioramento con neve fino a 1000 metri e forse anche a quote più basse. 12:31 minuti e 40 secondi, buona giornata da Lara Zani e Paolo Roncoletta. L'energia nucleare messa da parte 35 anni fa dopo un referendum è tornata di attualità a causa dell'impennata dei prezzi di gas e petrolio. Non ne parlano più solamente gli studiosi ma anche le parti sociali. La CISL ha organizzato a Monfalcone un confronto sulla transizione energetica e si è parlato in maniera concreta di possibili soluzioni con il nucleare anche nella nostra regione. Potrebbero essere pale eoliche, nuove turbine marittime o termovalorizzatori di nuova generazione e, non è da escludere, ipotesi di energia nucleare. Le soluzioni per tradurre in realtà la transizione energetica, ormai inevitabile, sono numerose e vanno applicate al territorio. Ne hanno discusso a Monfalcone in una tavola rotonda organizzata dalla CISL e Friuli Venezia Giulia, che ha riunito la politica con la sindaca Anna Cisint, le parti sociali e Confindustria. Obiettivo? Riflettere sulle possibilità di una nuova energia, rinnovabile, certo, ma anche sostenibile, anche alla luce dell'aumento dei prezzi innescato dalla crisi di queste settimane. Come spiega Michela Anastasio, coordinatrice CISL Trieste Gorizia, i problemi delle famiglie di questi giorni obbligano a una posizione di apertura a tutte le energie, cui non si può dire no a priori. Nel dibattito è emerso anche il tema, finora tabù, del nucleare come fonte di energia che, secondo Confindustria, interesserebbe molto un territorio a vocazione industriale come quello di Monfalcone. Si tratta di un'ipotesi, certo, ma si pensa già a qualche possibile sperimentazione, ad esempio con un reattore di 130 MW, in un primo momento non alimentato con energia nucleare, in grado di fornire elettricità a 22.000 famiglie. Monfalcone, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Le cartiere sono in difficoltà, non per i costi dell'energia, ma per la mancanza di ordini. In diverse aziende è stato prolungato lo stop produttivo con cassa integrazione. Chiusi per mancanza di lavoro, succede alla cartiera di Duino che ha chiuso i cancelli per altre 2 settimane. I dipendenti sono a casa in cassa integrazione. Lo fa sapere il consigliere regionale dell'Unione Slovena, Marco Pisani. Questa situazione non è determinata in modo diretto dal caro energia quanto dalla mancanza di ordini. Non vanno meglio le cose alla cartiera di Ovaro. È un po' tutto il settore ad essere in crisi, principalmente per il rallentamento del mercato di carta e cartone. Delle 6 cartiere presenti in Friuli Venezia Giulia, l'unica a non accusare problemi di ordini è la Sofida di Monfalcone, che produce carte per uso alimentare e carte igieniche. Pedrigoni cartiere di Cordenons sarà in blocco del lavoro dall'8 dicembre fino all'Epifania, quindi un mese. Il comparto in regione conta quasi 1000 dipendenti in cassa integrazione. Anche chi produce cartoncino qui in regione si trasformano in carta da pacchi, i cartoni che arrivano da fuori vedono un crollo in generale degli ordini. Questo perché si vende di meno online e quindi a cascata non servono questi cartoncini. A resistere sono quindi solo i beni di prima necessità, come appunto i fazzoletti o la carta igienica. All'Electrolux c'è preoccupazione tra gli 800 operai dello stabilimento di Porcia, che da oggi per i prossimi 15 giorni saranno in cassa integrazione con entrate quindi inferiori del 35% rispetto allo stipendio abituale. Il problema anche qui è che il volume produttivo è nettamente in calo, come tutti i beni merceologici il mercato si è ristretto, sempre per colpa del caro energia, e quindi il magazzino delle lavatrici è pieno. Tutti in cassa integrazione, gli 800 operai, si spera che il mese di dicembre, complice l'impulso che il Natale dà sul mercato, potrebbe essere un mese di lavoro a pieno regime. Settimana scorsa sono state fatte le assemblee sindacali e l'azienda ribadisce che crede in questa attività e lo dimostra, dice Walter Zoccolano, sindacalista della CGIL RSU Electrolux, ma quello che manca è proprio il mercato. Le previsioni per l'anno prossimo sono di stagnazione, la guerra in Ucraina non ha scadenze, anche il prezzo delle bollette non scenderà velocemente. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono molte le aziende che investono nelle rinnovabili per ridurre l'impatto del caro energia. Qualcuna di esse è stata più lungimirante e ha iniziato ad investire in questo settore più di 10 anni fa. Siamo ai piedi delle Dolomiti e quindi ci sentiamo naturalmente sostenibili. E quindi per noi è importante, fin dall'inizio credevamo alla sostenibilità, al fatto di comunque trattare bene il nostro pianeta. Quindi dall'inizio abbiamo detto cerchiamo di ridurre gli sprechi, i consumi. 5.000 nuovi pannelli fotovoltaici più altri 6.000 da installare entro primavera. La Roncadin di Meduno, che produce pizze surgelate, 100 milioni di pezzi l'anno, ha iniziato a investire nelle rinnovabili oltre 10 anni fa e oggi, spinta dalla crisi energetica, punta a coprire con il fotovoltaico il 30% del suo fabbisogno. L'amministratore delegato Dario Roncadin. Già storicamente avevamo più di 1,5 megawatt installato sui tetti, abbiamo installato una restante parte di 1 megawatt sugli attuali tetti, poi a terra, attorno all'azienda, abbiamo appena installato altri 2 mega e entro marzo del prossimo anno installeremo la restante parte per arrivare a circa 7,5 megawatt. L'obiettivo è quello di arrivare a circa il 30% del fabbisogno, perché con quello non riusciamo ad andare in autoconsumo totale. Dopo da lì dovremo trovare altre soluzioni per ridurre i consumi energetici. Bollette diventate insostenibili per un'azienda che consuma 25 milioni di kilowatt l'anno. Da 2 milioni che pagavamo all'inizio del 2019, quest'anno andremo a superare i 5 milioni solo di energia. La proiezione al prossimo anno dipende chiaramente come va il mercato, però può andare dai 5 ai 7, 8 milioni, insomma, solo dell'energia elettrica. Se ci aggiungiamo anche il gas, superiamo i 10 milioni. I forni saranno convertiti per il 100% a legna con un sistema di recupero del calore che si aggiungono ai sistemi di recupero delle acque di scarico e di efficientamento energetico sui tunnel di surgelazione. L'azienda friulana da 800 dipendenti, l'80% donne, sta anche convertendo all'elettrico il suo parco auto aziendale. Meduno, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Più di 2 milioni di euro per la formazione di oltre 7.500 dipendenti del sistema sanitario regionale sul tema delle infezioni ospedaliere. Lo ha deliberato la Giunta su proposta dell'assessore alla salute Riccardo Riccardi. Il piano di formazione coinvolgerà 3.194 dipendenti dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 2.396 dipendenti della SUGI Isontina, 1.370 lavoratori dell'ASFO, 237 del CRO di Aviano, 307 del Burlo Garofalo e 33 dell'ARCS. La formazione sarà affidata agli enti del sistema sanitario regionale e si stima, ha spiegato l'assessore, che i primi 4.000 dipendenti saranno formati all'inizio del 2025. Tra gli obiettivi dei corsi c'è anche quello di favorire l'acquisizione di abilità pratiche per sanificare correttamente le superfici, i dispositivi medici e gli ambienti e smaltire correttamente i rifiuti potenzialmente infetti. Via libera dalla Giunta regionale alla realizzazione di interventi di prevenzione di calamità naturali e mitigazione del rischio dal dissesto idrogeologico per 572.000 euro. Con la delibera proposta dall'assessore all'ambiente Fabio Scoccimarro, 250.000 euro sono stati destinati al comune di Cimolais per il secondo e terzo lotto dell'intervento di messa in sicurezza del centro abitato, 90.000 al completamento dell'intervento di messa in sicurezza a Erto e Casso, 120.000 per la messa in sicurezza da crolli del versante nord a monte della strada comunale in località Spagnut in comune di Pulfero. Infine, 112.000 euro al comune di Rigolato per il completamento delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico a Riccio. Eli Friuli passa in mani spagnole. Il gruppo Elians, operatore attivo nel settore dei servizi elicotteristici, ha acquisito la maggioranza del capitale sociale di Eli Friuli S.p.A., affiancando i due soci finanziari che rimangono nella compagine con una quota di minoranza. A settembre 2021 i soci finanziari, il Fondo Sviluppo PMI e Friulia, avevano acquisito il 26% del capitale. Eli Friuli, a società fondata da Luigi Coloatto nel 1971 con sede a Ronchi dei Legionari, è l'operatore elicotteristico più longevo in Italia. L'attività di Eli Friuli comprende un'ampia gamma di servizi elicotteristici, i cui principali sono l'elisoccorso e l'antincendio boschivo, i quali coprono complessivamente circa la metà dei ricavi totali della società. La società dispone di 3 basi operative permanenti, 2 in Friuli Venezia Giulia e 1 in Veneto, una flotta composta da 17 elicotteri e 3 aerei e un organico che comprende circa 65 addetti, tra piloti, tecnici, ingegneri e personale amministrativo. Da alcuni anni la società è anche presente in Croazia, attraverso la controllata Eli Adriatic. Mobilitazione degli studenti in alcune città italiane, fra le quali Udine. Questa volta la protesta non riguarda l'ambiente, ma il governo, al quale viene chiesto un investimento sull'istruzione. Studenti in piazza in Friuli Venezia Giulia al grido «Ora decidiamo noi». Una mobilitazione anche a livello nazionale contro le politiche del governo Meloni sull'istruzione. La manifestazione ha coinvolto diverse città italiane. A Udine più di 150 ragazze hanno sfilato in corteo da piazzale Cave d'Alis per percorrere via Galilei, via Faula, via Lecadore, via Leonardo da Vinci fino a piazza Primo Maggio, dove ci sono stati i discorsi e gli interventi rivolti al pubblico. Qualche disagio alla circolazione in via Leonardo da Vinci. Per il resto la manifestazione si è svolta in modo ordinato. Sono molteplici le richieste fatte dagli studenti e relative secondo ogni contesto provinciale e regionale. Beatrice Bertossi, Unione Studenti. Vogliamo l'abolizione dei percorsi PCTO in favore dell'istruzione integrata, quindi la formazione deve avvenire nei luoghi della formazione e non all'interno di aziende private che non hanno neanche un codice etico per la selezione. Vogliamo una tutela del benessere psicologico. Vogliamo un incremento dei diritti, vogliamo che l'istruzione torni ad essere realmente gratuita, non solo formalmente, e vogliamo che effettivamente ci sia un incremento della rappresentanza all'interno dei consigli d'istituto e all'interno, laddove non è possibile, delle commissioni paritetiche. Il tema degli alloggi, oltre al cambio del nome del Ministero, è quello portato avanti dall'Unione Universitaria di Udine. La coordinatrice dell'UDU, Ambra Canciani. Vorremmo che si parlasse anche di una calmierazione degli affitti a Udine, vorremmo che ci fosse, come dicevo, una casa dello studente pubblica. In questo momento la soluzione di casa Burgarte è una soluzione temporanea, almeno noi speriamo che sia una soluzione temporanea, che vede la partecipazione di enti privati. Fare un investimento sul diritto allo studio significa fare un investimento pubblico per gli studenti e le studentesse universitarie, in questo caso di Udine. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Oltre 1.800 articoli privi dei requisiti di legge sono stati sequestrati la scorsa settimana in un intervento congiunto tra i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Gorizia e gli agenti della Polizia Locale di Monfalcone. Si tratta di pezzi di bigiotteria, prodotti elettrici e cover per cellulari, risultati non conformi alle regole del codice del consumo e alla normativa relativa al materiale elettrico a bassa tensione. Il controllo, effettuato a seguito di una preventiva attività info-investigativa e di analisi, condotta mediante l'ausilio delle banche dati, ha permesso di individuare diverse attività economiche operanti nel comune di Monfalcone, nei cui confronti, oltre al sequestro di merce del valore di circa 22.000 euro, sono state contestate sanzioni amministrative per circa 6.000 euro. Principio d'incendio nelle prime ore di oggi in un resort a Spessa di Capriva del Friuli. I vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti alle 7:15 con un'autopompa e un'autobotte e, verificato che all'interno dei locali interessati dall'incendio non vi erano persone, hanno spento le fiamme che si erano sviluppate in una canna fumaria a servizio della SPA della struttura e poi hanno provveduto alla messa in sicurezza dei locali. Le cause sono in corso di accertamento. La polizia di frontiera marittima ed aerea di Ronchi dei Legionari ha arrestato 3 cittadini iraniani che si stavano imbarcando sul volo per Londra. I loro documenti erano contraffatti. 2 uomini sono finiti nel carcere goriziano di via Barzellini. La donna, che viaggiava assieme ai suoi 2 figli, è stata collocata agli arresti domiciliari presso una struttura ricettiva con i 2 bambini. E ora la parentesi del tempo, quando sono le 12:44 minuti e 20 secondi. Cielo coperto sul Friuli Venezia Giulia. Ci sono state delle piogge nella notte abbondanti a Trieste, 25 mm caduti di pioggia, 25 mm di pioggia caduti. Le temperature rilevate a mezzogiorno, a Trieste 14 gradi, a Udine 14,5, a Gorizia 13,5, poco meno di 13 gradi a Pordenone, quasi 11 gradi a Tolmezzo, 6 a Forni di Sopra, 5 a Tarvisio, quasi 4 a Sappada. 1,5 gradi sullo Zoncolan, meno 1 grado sul Monte Lussari. Torniamo sulla costa, 14 gradi a Lignano e Grado. E ora le previsioni del tempo per le prossime ore. Avremo cielo nuvoloso o coperto con possibili piogge sparse, più probabili est fino a metà giornata. Dal pomeriggio possibile miglioramento del tempo con schiarite. Per il tempo di domani ascoltiamo Gabriele Fasano, previsore di ARPA FVG. La cosa più importante sarà l'ingresso della bora da domani, soprattutto da metà giornata, e poi fino a domenica, quando da metà giornata in avanti potrebbe attenuarsi leggermente. La bora sarà sostenuta o anche forte sulla costa, specie sul Carso Trieste, e in genere moderata in pianura. Per il resto il cielo si presenterà in genere variabile, ma avremo dei momenti con maggiore nuvolosità, specialmente tra sabato pomeriggio e domenica mattina, e momenti invece con minore copertura. Le piogge saranno poco probabili, potrebbe esserci qualche debole pioggia sparsa sabato pomeriggio sulla costa e sul comparto orientale, con neve oltre i 1500 metri, ma appunto si tratta di probabilità di precipitazioni molto, molto basse, mentre domenica le precipitazioni saranno ancora meno probabili. E cosa succederà nell'inizio della prossima settimana? Allora, l'inizio della prossima settimana, lunedì, sarà una giornata probabilmente un po' interlocutoria, con variabilità e bassa probabilità di piogge. Potrebbe esserci un iniziale peggioramento in tarda serata, in vista invece dell'arrivo di una perturbazione decisamente strutturata martedì, una perturbazione atlantica, che porterà delle piogge diffuse, abbondanti, un po' su tutta la regione, e complici anche le temperature che nei prossimi giorni gradualmente si abbasseranno, porterà probabilmente della neve, anche probabilmente insomma in quantità consistente sulla montagna, anche forse a quote localmente inferiori ai 1000 metri. A Trieste si sta lavorando per completare la nuova sede di Esatto, la concessionaria per la riscossione dei tributi, la sede che sorgerà nei pressi della vecchia stazione di Campo Marzio. A un anno dall'avvio sono arrivati al 60% i lavori di riqualificazione dell'ex centro meccanografico di Trieste, situato alla fine delle rive. Il palazzo è destinato a ospitare una parte degli uffici dei servizi sociali e a diventare la nuova sede centrale di Esatto, la società di riscossioni del comune. Un'operazione importante, visto che su 200.000 abitanti, 50.000 triestini si recano presso gli sportelli, oggi dislocati in 3 siti. I lavori, dal costo complessivo di 4.600.000 euro, dovrebbero terminare nella tarda primavera del prossimo anno e la piena operatività del nuovo edificio, dopo il trasferimento del personale, dovrebbe invece arrivare a febbraio 2024. La ristrutturazione del palazzo, costruito negli anni 80 dalle Ferrovie dello Stato, si inserisce nei piani di rinnovamento dell'intera area di Campo Marzio, che vede attualmente in corso anche i lavori nell'adiacente museo ferroviario e prevede in futuro il rifacimento della piscina terapeutica e il nuovo mercato ortofrutticolo. Trieste, Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. Il gruppo Territorio del locale osservatorio sociale organizza alle 20:30 nella sala consiliare del comune di Fagagna una serie di approfondimenti su temi oggi cruciali. Elisabetta Pecol, docente e ricercatrice dell'Università di Udine, parlerà del suolo come ricchezza straordinaria di cui acquisire maggiore consapevolezza. Glauco Pertoldi, dottore agronomo, si soffermerà sulla rete ecologica locale come strumento di valorizzazione della connettività ecologica e della biodiversità. Infine Cristina Micheloni, dottore agronomo, tratterà dell'agricoltura biologica e sostenibile. Le imprese alimentari domestiche sono diventate un'alternativa alla classica ristorazione. Il cibo viene preparato a casa e poi portato a domicilio. Nel corso della trasmissione Buongiorno Regione ci siamo occupati di questa nuova tipologia di attività che in inglese viene chiamata home food. Sono 11 in Friuli Venezia Giulia, circa 400 in tutta Italia. Al 96% sono giovani donne con figli in età scolare o cinquantenni che hanno perso il lavoro e decidono di scommettere su loro stesse. L'autoimprenditorialità nasce anche tra i fornelli di casa. Sono le IAD, imprese alimentari domestiche, cresciute negli ultimi 7 anni del 46%. Preparare il cibo in casa e poi venderlo per asporto, per qualcuna un modo per arrotondare, per altre un vero e proprio lavoro, come spiega Patrizia Polito, presidente di IAD Italia. Certamente ci si vive, lì dipende dalla capacità imprenditoriale ovviamente del singolo. Ci sono IAD che guadagnano molto bene ovviamente. La maggior parte sicuramente si occupano di pasticceria, ok? Pasticceria fresca, pasticceria secca, molte cake designer. Ma cosa serve per aprire una IAD? La nostra cucina casalinga deve rispettare alcune norme di igiene e sicurezza, per esempio la piastrellatura fino a 2 metri o la pittura lavabile HCCP. Tutti i piani devono essere sanificabili e igienizzati. Bisogna utilizzare le cuffie, bisogna utilizzare ovviamente degli indumenti adatti, avere un secondo frigorifero dove conservare gli alimenti che si usano solo ed esclusivamente per la produzione IAD. CAD, non bisogna avere gli animali domestici ovviamente che entrano all'interno della cucina, niente presenza di cucce, ciotole, lettiere, cose di questo tipo, e anche le persone della famiglia negli orari in cui si lavora come IAD non possono entrare in cucina. Un modo anche per far emergere il nero. Bisogna aprire la partita IVA e iscriversi alla Camera di Commercio come artigiani, cioè noi siamo degli artigiani, si pagano le tasse, si paga l'INPS, si paga l'INAIL, siamo aziende legali che possono operare esattamente come qualsiasi attività di alimentare, il laboratorio, il bar, il ristorante. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. I sindacati che rappresentano i lavoratori del carcere di Tolmezzo, OSAP, USP, SIPE e CGL-FP, lamentano le carenze di personale della struttura penitenziaria, in particolare la mancanza di figure definite primarie, quali funzionari amministrativi, contabili ed educatori, oltre a quella di agenti di polizia penitenziaria. Secondo i sindacati, le richieste di intervento inviate ai superiori non hanno avuto riscontri. Evidentemente l'istituto carnico non desta l'interesse gestionale per l'amministrazione centrale, lasciando a quella regionale l'onere di inviare in missione dirigenti e personale di polizia penitenziaria, penalizzando parallelamente gli istituti cedenti, non dando risoluzione a nulla, soprattutto, conclude nota, trattandosi di un istituto con presenza di detenuti di massima sicurezza. Iniziativa di solidarietà dei Vigili del Fuoco di Pordenone. La somma raccolta andrà a favore di una struttura che ospita ragazzi disabili. I pompieri ritratti con i loro figli intenti in una diversa attività per ogni mese dell'anno. Il calendario 2023 dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha come tema la domanda «Cosa farai da grande?». L'iniziativa benefica è stata presentata al comando provinciale. Giovanni Greco, il comandante Vigili del Fuoco di Pordenone. Il nostro lavoro è anche solidarietà. Noi tutti i giorni soccorriamo le persone, ma ci prendiamo cura di loro. Anche in questo caso cerchiamo di portare un minimo di serenità a delle persone che comunque hanno bisogno. È sempre una goccia nel mare, ma tante gocce fanno il mare. Il calendario, realizzato dall'Associazione Vigili del Fuoco di Pordenone, è disponibile a offerta libera. Il progetto Casa al Sole di Pordenone ospita persone con disabilità in 7 appartamenti del centro città. Sandro Morassut, presidente della Fondazione Down, Friuli Venezia Giulia. La sfida importante è quella di cercare di far vivere alle persone con disabilità intellettiva una vita quanto più normale possibile. In centro città, in appartamenti indipendenti l'uno dall'altro. Il nostro scopo è quello di cercare di dare loro quasi una famiglia, la vita di una famiglia normale. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Luca Maggio Zanon, 22enne, autore friulano, finalista del premio Campiello Giovane 2022 con Il silenzio delle terre arse dal sole, ha vinto la 9ª edizione del premio letterario Caterina Percoto con il racconto Pafascitur. Il testo è la parabola del riscatto dell'umanità attraverso la piccola epopea individuale di due giovani che, sfidando ataviche convenzioni, riescono a far prevalere la legge del cuore. Il premio Caterina Percoto è promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Manzano. Seconda classificata l'autrice torinese Rossella Bottallo con Futura. 12:53 minuti e 30 secondi termina l'edizione meridiana del giornale radio regionale, edizione redatta da Lara Zani e Paolo Roncoletta. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, assistenza tecnica di Carlo Morello e Mauro Cumin. Appuntamento per la terza edizione alle 15. Grazie a tutti voi per averci seguiti e buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.